Ho salito e disceso le scale di 100 palazzi, ho bussato ed atteso alle porte di 100 indirizzi, e niente, niente, niente, ma niente per me. Ma un giorno tra la folla ho visto te. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Amore vero, esistono gli angeli. È vero, amore vero, io credo ai miracoli. Ognuno mi stende la mano, ognuno mi offre una rosa. Le strade, la folla, ogni cosa è bella con te. È vero, amore, è vero, mi sento rivivere. Il mare, il cielo, il sole, tutta una musica. Ho l'anima piena di luce, io amo, io sono felice. È vero, un miracolo, è vero, amore. Hai messo le ali, dalla vita non voglio più niente, io voglio te sola. Ho tutto, tutto, tutto, tutto con te. Il mondo con un bacio hai dato a me. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero.